Mancano ormai 6 mesi alla celebrazione della data esatta del centenario della morte di San Pio X, il 20 agosto del 2014. Ricordiamo che è prevista la Santa Messa a Riese all'aperto, evidentemente, perché saremo, speriamo, in piena estate, visto che le stagioni in questo periodo sono un po' ballerine. Ebbene, questo anno centenario è contornato ovviamente da tanti appuntamenti spirituali. Questo sarà il culmine appunto del centenario il 20 di agosto dal primo sabato di Quaresima, quindi dall'8 di marzo, e si sta avvicinando velocemente. Inizieranno anche i pellegrinaggi dei vicariati della diocesi di Treviso nei luoghi di San Pio X, e il primo gruppo di vicariati, Castelfranco, Montebelluna e Nervesa, sono chiamati al pellegrinaggio nel paese natale di Giuseppe Sarto, appunto Riese, nel pomeriggio dell'8 di marzo. In quella giornata ci sono altri 2 importanti appuntamenti musicali e culturali che ricorderemo però anche nelle prossime settimane. Segnalo oggi altre 2 iniziative. Per chi ci ascolta la domenica 23 sarà già passata, ma per chi ci ascolta prima invece c'è l'opportunità di segnarsi in calendario il ritorno al Teatro Accademico di Castelfranco della commedia di Giuseppe Maffioli, Papa Sarto. È il primo appuntamento nell'area castellana di questo anno centenario. L'appuntamento è questo sabato alle 20.45. La proporrà la filodrammatica Beppi Sarto di Riese Pio X, che con questo nome non poteva che fare di questa commedia il suo cavallo di battaglia. Infatti questa commedia è già stata replicata 40 volte in 25 anni nei teatri veneti, ma anche in altre regioni, perfino all'estero, a Lourdes e a Toronto, con lusinghieri successi. La filodrammatica Beppi Sarto è stata fondata 30 anni fa ed è composta interamente da amatori, e per questo anno centenario ha ripreso in mano il copione originale scritto da Giuseppe Maffioli, che fu al loro fianco nel preparare la prima, il debutto, nel 1985, senza però potervi assistere perché morì improvvisamente. La commedia è in 3 atti per 2 ore di spettacolo. Racconta la vita di Pio X a partire da quando era patriarca di Venezia, con qualche flashback nella sua vita precedente, finché fu eletto papa e fino alla sua morte, toccando tutti i temi che lo videro protagonista 100 anni fa e poco più: la riforma della Chiesa, il modernismo, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ripeto, per chi ci segue il lunedì 17, non nella replica della domenica, ricordo che l'appuntamento è alle 20.45 di sabato 18, biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro. Rimaniamo in ambito artistico, perché c'è un'altra importante iniziativa che coniuga l'arte e anche la solidarietà. È il concorso di pittura 1914-2014 Giuseppe Sarto tra memoria e attualità, per commemorare attraverso la pittura e rendere quindi immediatamente fruibile gli aspetti di spiritualità, carità e impegno civile che hanno caratterizzato l'opera di Giuseppe Sarto, non quando fu papa, ma quando fu parroco a Salzano dal 1867 al 1875. L'iniziativa è proprio del Museo San Pio X, che si trova a fianco della chiesa di Salzano. Se non l'avete visitato, è un invito quello che rilanciamo ad andare a vederlo. Arte e solidarietà nel segno dell'attenzione e dell'instancabile lavoro di Don Giuseppe, così si chiamava all'epoca, a favore delle situazioni di disagio e di povertà. Tutte le opere partecipanti a questo concorso saranno messe in mostra il 31 maggio e il 1 giugno nell'ambito della locale festa della filatura, e in quell'occasione saranno messe in vendita. Il ricavato sarà devoluto al progetto della Caritas parrocchiale di Salzano Non c'è famiglia senza casa, per sostenere le persone e le famiglie della comunità locale che sono in reale difficoltà. Sono 2 le sezioni di questo bando di concorso, la prima sul tema del bando, quindi Giuseppe Sarto tra memoria e attualità, e poi un tema libero per la seconda sezione fuori concorso. L'opera vincitrice sarà riprodotta in grandi dimensioni e collocata nella chiesa arcipretale di Salzano. Cerimonia ufficiale prevista il 24 agosto. Per il vincitore è previsto anche un premio di 750 euro. La partecipazione al concorso è gratuita. I lavori vanno consegnati entro il 4 maggio. Per informazioni c'è il sito del museo, museosanpiox.it, è il museo di Salzano, iniziativa che rientra nel progetto più ampio dell'iniziativa appunto per il centenario. L'idea è promossa dall'associazione culturale Tempo e Memoria con il patrocinio del comune, della parrocchia e della Proloco di Salzano, in collaborazione con la Caritas parrocchiale, con il gruppo artistico Carlo Dalla Zorza e il gruppo artistico Andrea Celesti. Giuseppe Sarto tra memoria e attualità, dunque, per coniugare l'arte e la solidarietà in memoria di Papa Pio X quando fu parroco a Salzano.